giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mi ritrovo in questa stanza col volto di ragazzo e adolescente, e ora uomo. Comincia così la poesia senza titolo di Pierpaolo Pasolini, composta nel 1940, che dà corpo alla traccia A1, analisi del testo ed interpretazione della prova di italiano alla maturità. Fra le tracce anche un testo di Tomasi di Lampedusa e uno spunto di Paolo Borsellino sui giovani. La prima volta di Pasolini in una traccia all'esame di maturità, soddisfazione ed entusiasmo al centro studi di Casarsa, dove si sottolinea la scelta di un testo risalente agli anni friulani del poeta. Sorpresa e ottimismo alla Tirso di Muggia, prorogati di 6 mesi i termini per la procedura negoziale di uscita dalla crisi, si apre uno spiraglio perché un imprenditore del settore della metallurgia leggera ha manifestato il suo interesse. Il Friuli Venezia Giulia punta a diventare un modello di sviluppo sostenibile con il progetto FVG Green, premio sostenibilità lanciato dall'assessore Fabio Scoccimarro. L'iniziativa anticipa di 5 anni gli obiettivi del Green Deal europeo e premia progetti innovativi su risorse idriche, energia e clima. In giuria anche l'ex ministro Edo Ronchi. Andreina Contessa saluta Miramare annunciando per il 2026 una grande mostra sulla collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo, custodita oggi a Vienna. L'esposizione racconterà anche il legame ottocentesco tra Trieste e l'Egitto. Il progetto coinvolgerà vari musei in un dialogo corale sul collezionismo storico. Ieri sera al Verdi di Pordenone il concerto dell'orchestra giovanile Mahler, fondata da Claudio Abbado, selezionati tra i migliori d'Europa e destinati a diventare solisti e prime parti nelle orchestre più prestigiose. In residenza a Pordenone quest'anno sono diretti da Christoph Eisenbach con Matthias Görner come solista. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Andrei Maruscic e Antonio Cagliazza. Dunque, in classe dalle 8:30, al lavoro dalle 9:00, è in corso la prima prova della maturità 2025, quella di italiano. 7 le tracce, 6 le ore a disposizione e fra poco, forse in questi minuti, i primi studenti cominceranno ad uscire dagli istituti. Fra le tracce, per la prima volta, uno spunto tratto da Pierpaolo Pasolini. C'è un po' di Friuli con uno dei suoi letterati più controversi tra le tracce per la prima prova dell'esame di Stato, quella di italiano. L'opera di Pierpaolo Pasolini proposta per l'analisi del testo è una sua poesia tratta da Dal diario 43-44, si tratta di appendice 1, priva di titolo, e che rappresenta il sunto dell'itinerario letterario che l'autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. Sono oltre 8.800 gli studenti ammessi all'esame finale in regione, quasi il 97% degli iscritti alle classi quinte. Solo il 3,7% è stato bocciato, dato in linea con quello nazionale. Le tracce, uguale per tutti gli istituti, sono arrivate via telematica alle 8:30. Tempo di stamparle, fotocopiarle, le commissioni le hanno distribuite agli studenti. Non solo l'artista di Casarsa, che comunque era pagina 1, queste le altre tracce. Il gatto pardo di Tomasi di Lampedusa per il tema letterario, gli anni 30, il New Deal per quello storico e le riflessioni del saggista Telmo Pievani sull'impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio per quello scientifico. Tra quelli legati più all'attualità, rispetto come parola dell'anno, secondo l'elaborato proposto, la mancanza di rispetto è infatti alla base della violenza esercitata quotidianamente nei confronti delle categorie fragili. Poi Paolo Borsellino, che rappresenta la vera sorpresa dell'esame di maturità 25. A 33 anni dalla strage di Via D'Amelio, il Ministero dell'Istruzione ha scelto il magistrato tra le tracce per la tipologia C, che contiene anche la gettonatissima e scontata traccia su social media e indignazione digitale, con un testo dal titolo L'indignazione e il motore dei social, ma serve a qualcosa? I maturandi avranno fino a 6 ore di tempo per consegnare, ma non potranno comunque lasciare l'aula prima delle 3 ore dalla ricezione delle tracce, salvo ritiro. Trieste, Andrea Saula, TGR, Friuli Venezia Giulia. E sulla scelta di un testo di Pasolini quale spunto per una riflessione in una traccia della prova d'italiano abbiamo sentito Marco Attilio Salvadori, presidente del Centro Pasolini di Casarsa. È una gioia immensa in un anno drammaticamente pasoliniano, perché celebriamo quest'anno i 50 anni della morte di Pierpaolo Pasolini, ma una traccia all'esame di maturità ci certifica ulteriormente quanto sia viva la voce di Pierpaolo Pasolini a 50 anni dalla morte, avremo modo di riprendere questo argomento e questa considerazione nel convegno di novembre, però in questo momento veramente è una cosa molto molto importante che ci restituisce l'attualità del pensiero e della parola di Pierpaolo. Mi ritrovo in questa stanza col volto di ragazzo e adolescente e ora uomo. L'appendice 43-44 dai diari, quindi la fase friulana. Eh sì, e questo è ancora più sorprendente perché del Pasolini romano viene lasciato un po' in parte quello più famoso, quello più noto, quello che gli ha recato più fama, e invece viene utilizzata una traccia che si riferisce appunto agli anni friulani, gli anni formativi, quelli che in qualche modo determinano le sue scelte linguistiche, tematiche, l'adozione di una formula narrativa che riprodurrà nei romanzi romani e anche nel suo cinema. E questo è quindi un ulteriore motivo di grande importanza e di vanto per noi, perché la stagione friulana è così bella e così importante che adesso insomma fa parlare di sé almeno in queste ore. Walter Scherck, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora facciamo il punto sulle novità della maturità 2025. Da quest'anno vi si accede solo se in possesso dei cosiddetti PCTO, i percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'altra novità ha a che fare col voto di condotta. Se è 9 o più di 9, garantisce un punteggio più alto. Se è 6, prevede la compilazione di un elaborato sul tema della cittadinanza da discutere durante l'esame. Sentiamo Luca Gervasutti, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono numerosi i 6 assegnati in condotta e quindi saranno molti gli studenti che durante il colloquio dovranno approfondire un elaborato sulle tematiche della cittadinanza attiva e solidale. Si tratta di indurre gli studenti che durante l'anno non mantengono un comportamento adeguato al contesto in cui operano di riflettere sui loro comportamenti e sulla necessità di rispettare quelle che sono le regole che necessariamente un'istituzione scolastica deve darsi. È un esperimento che credo possa rivelarsi utile. Voto in condotta a parte, molti si chiedono se il sostantivo maturità possa essere ancora abbinato a un esame al quale ormai molti genitori assistono portando pure i fiori, come si trattasse di una recita della scuola elementare o di un saggio di pianoforte. È un ulteriore segno dei tempi che cambiano. Il mondo in cui viviamo dovrebbe indurre i genitori a lasciare andare i propri figli. Questa è una grande capacità, un grande senso, segnale di maturità che le famiglie dovrebbero dimostrare di possedere nei confronti degli alunni che si apprestano ad affrontare gli esami di Stato. E invece, purtroppo, soprattutto in questi ultimi anni, assistiamo a comportamenti da parte dei genitori finalizzati a rivestire molto spesso il ruolo di avvocati o di sindacalisti dei propri figli. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. E l'interesse di un imprenditore della metallurgia leggera, per ora è tutto quello che si sa, riaccende la speranza dei lavoratori della Tirso, azienda tessile di Muggia, sull'orlo della chiusura definitiva. Ora c'è tempo fino al 12 dicembre per trovare una soluzione. L'ultimo round era finito davvero male, con volti scuri delle lavoratrici, dei sindacati, della politica. Il 28 maggio la Tirso di Trieste era data per spacciata. 160 dipendenti, quasi tutte donne, over 50, con oltre 25 anni di anzianità nell'azienda tessile, destinate al licenziamento. A quel tavolo, ha detto Massimiliano Ciarrocchi, direttore di Confindustria Alto Adriatico, era inimmaginabile si aprisse una nuova partita, e invece è successo. Qualche giorno fa ha manifestato interesse a rilevare il sito un imprenditore della metalmeccanica leggera. Non si conosce il nome, nessuno si azzarda a svelarlo, tutti scottati dal precedente caso con Roncadini, produttori di pizze surgelate, che dovevano rilevare il sito. Ma questa novità ha permesso di prorogare per 180 giorni la procedura di composizione negoziata, quasi 6 mesi di tempo regalati per provare a garantire la continuità occupazionale. Noi siamo con Nicola Dalmagro della Filctem CGL. Significa questo che si congela la procedura di licenziamento di queste persone? Allora, di fatto la procedura di licenziamento in questo momento non viene congelata, perché comunque le tempistiche, viste anche la scadenza della cassa integrazione per il 30 settembre, resterà comunque che ci sarà un'informativa sul licenziamento collettivo per il 15 di luglio, quindi a metà mese di luglio. È chiaro che questo nuovo scenario positivo potrà darci la possibilità eventualmente di sospendere la procedura di licenziamento, quindi continuiamo una corsa contro il tempo, ma a garanzia proprio occupazionale della continuità produttiva del sito. Sarà stato chiamato dalle lavoratrici, voi come sindacato siete sempre stati vicini. Che cosa vi hanno chiesto? Che cosa hanno detto? Le lavoratrici ci hanno chiesto di continuare a salvaguardare il loro posto di lavoro, di esserle vicini. Difatti il 25 ci sarà un'assemblea con le lavoratrici e i lavoratori pubblica, insomma, visto che l'azienda è chiusa, e continueremo a salvaguardare appunto i posti di lavoro, a chiedere che questo imprenditore, come già annunciato dalla Regione e da Confindustria, garantisca l'assunzione in tutte 160 le persone coinvolte. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. In vista della partita di Supercoppa europea prevista allo stadio Friuli di Udine tra il Paris Saint-Germain e il Tottenham del 13 agosto, si è svolto un primo incontro fra Comune, Regione, Federcalcio e rappresentanti degli esercenti, dei ristoratori, degli albergatori. È stato un primo incontro preliminare a porte chiuse che ha voluto delineare una risposta adeguata del settore turistico ricettivo nelle giornate a ridosso della giornata di Ferragosto. Un incontro tecnico a porte chiuse per coinvolgere i commercianti nella gestione dell'evento della finale della Supercoppa europea che si giocherà il 13 agosto allo stadio di Udine, che vedrà l'arrivo in città di diverse migliaia di tifosi del Tottenham e del Paris Saint-Germain, le due squadre finaliste fidanti. La macchina organizzativa si è già messa in moto con UEFA, Federcalcio, Promoturismo e Comune schierati per organizzare iniziative parallele, per far sì che l'evento diventi un richiamo turistico importante per la città e la regione, ma il successo non può arrivare senza il contributo dei commercianti, ai quali oggi è stato chiesto di essere protagonisti attivi, nonostante appunto questo evento cada nella settimana di Ferragosto, nella quale notoriamente negozi e anche attività sono chiuse per ferie. Giovanni Tigani, referente dei pubblici esercizi di Udine per Confcommercio, lei come la vede? Come risponderanno secondo lei i suoi iscritti? Noi abbiamo già fatto un piccolo sondaggio tra i nostri associati, ma i dati di oggi dicono che molti sono propensi a rimanere aperti. Bisogna anche dire che grazie all'azione della Regione e del Comune, che hanno messo, diciamo, negli ultimi anni in luce la vocazione turistica anche di questa città, molti già esercizi hanno cambiato i turni delle ferie e durante agosto rimangono aperti. Qualche preoccupazione invece per l'animosità delle due tifoserie? Certamente non abbiamo avuto la migliore delle fortune avendo queste due tifoserie a confronto, ma abbiamo già avuto dimostrazioni che la nostra prefettura e la nostra questura sanno gestire eventi di questa portata. Fidiamo che anche questo evento venga gestito con le stesse modalità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il sindacato CISAL FVG, per voce del segretario regionale Claudio Palmisciano, critica la riduzione dei servizi sanitari durante l'estate per carenza di personale. Pur riconoscendo il diritto alle ferie dei lavoratori, Palmisciano sottolinea che il diritto alla salute dei cittadini deve essere prioritario. Invita dunque la Regione e le direzioni sanitarie a garantire la continuità delle prestazioni. Chiede inoltre un confronto urgente per evitare ritardi nelle cure e propone di cercare professionisti per coprire le carenze estive. La Guardia di Finanza di Trieste ha concluso un'importante operazione nel settore della nautica da diporto, focalizzandosi su imbarcazioni con bandiera estera ma utilizzate da cittadini italiani. L'indagine ha evidenziato un aumento del flagging out, ovvero l'immatricolazione all'estero per beneficiare di normative fiscali e assicurative più vantaggiose. Tuttavia la legge italiana impone a chi risiede nel paese di dichiarare tali beni nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Sono state individuate 21 imbarcazioni non dichiarate per un valore complessivo di circa 2.600.000 euro. Le sanzioni amministrative superano i 77.000 euro. E il comune di Monfalcone ha indetto una gara per affidare il servizio di preparazione e consegna pasti a domicilio a persone fragili residenti in 9 comuni dell'ambito Carso Isonzo Adriatico. Il servizio prevede anche un supporto socioassistenziale come la verifica delle condizioni degli utenti. L'appalto ha una durata di 36 mesi, è rinnovabile e un valore stimato complessivo di oltre 4 milioni di euro. Sono richiesti requisiti specifici ai partecipanti, tra cui l'esperienza nel settore e disponibilità di un centro cottura vicino. L'obiettivo è garantire qualità, continuità occupazionale e tutela del benessere delle persone assistite. L'assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha presentato il premio FVG Green, un premio che punta a fare della regione un modello nel campo della sostenibilità. L'iniziativa vuole favorire il raggiungimento della decarbonizzazione in regione con 5 anni di anticipo sull'obiettivo europeo del 2050. Il Friuli Venezia Giulia, regione modello di avanzato sviluppo sostenibile e innovazione ambientale. È questo l'obiettivo ambizioso che si pone l'assessorato alla difesa dell'ambiente con il progetto FV Green Premio Sostenibilità presentato dall'assessore Fabio Scoccimarro. Non è un'azione isolata, ha sostenuto Scoccimarro, ma un tassello di un progetto organico che anticipa di almeno 5 anni gli obiettivi del Green Deal europeo in termini di decarbonizzazione, efficienza energetica, mobilità sostenibile e tutela delle risorse naturali. Tutti i cittadini, le associazioni, le scuole di ogni ordine e grado parteciperanno a questo premio FV Green che va nel solco di quelle che sono le nostre idee di sviluppo sostenibile, di arrivare al Green Deal europeo non nel 2050 ma nel 2045. Il premio è rivolto a imprese e start-up, enti pubblici, consorsi, amministrazioni, terzo settore, scuole, associazioni no profit con proposte nel settore delle risorse idriche, tutela e risanamento delle acque interne marine, gestione e miglioramento delle reti di distribuzione di acqua, produzione di energia idroelettrica, energie e clima, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, efficientamento di edifici pubblici, mobilità sostenibile, vivibilità delle aree urbane, adattamento al cambiamento climatico per aumentare la resilienza. Si potrà partecipare compilando la scheda disponibile sul sito del premio entro il 25 luglio. Saranno scelti 6 progetti vincitori. Presiede la commissione giudicatrice l'ex ministro Edo Ronchi. Trieste, Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Il meteo, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste, Udine 27 gradi e mezzo, Pordenone 26,5, Gorizia 28, sul Piancavallo 20 gradi e 5 decimi, Tarvisio e Sappada 21 gradi, Forni di Sopra 22, Tolmezzo 24 e mezzo. Sul Monte Lussari 14 gradi e 5 decimi, invece sullo Zoncolan 16 gradi, a Grado 27, a Lignano invece 28 gradi. Le previsioni, cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, ma con qualche velatura pomeridiana, soffieranno venti di brezza. Il bilancio degli 8 anni di Andreina Contessa alla guida del Museo di Miramare è stata l'occasione per annunciare un nuovo progetto, quello di una mostra dedicata alla collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo. La direttrice Andreina Contessa saluta Miramare con un progetto che diventerà realtà nel 2026, quello di una mostra dedicata alla collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo, ma anche più in generale al legame fra la Trieste ottocentesca e l'Egitto. L'annuncio è arrivato nel corso del convegno che la stessa Contessa ha voluto per tirare le somme degli 8 anni alla guida del museo. Andreina Contessa, direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. Una grande sorpresa, un grande regalo non solo a Miramare ma anche alla città. L'idea è quella di riportare da Vienna e quindi dal Museo di Custo Storico l'antica collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo. Massimiliano d'Asburgo aveva una splendida collezione egizia di oltre 2000 pezzi che sono diventati il nucleo dal quale è cominciata la grande collezione del Kunst. L'idea è di chiedere un prestito e di fare una grande mostra che riporti questa collezione a Trieste per la prima volta dopo un secolo e mezzo. Il progetto, ha spiegato Simone Todorov, amministratore delegato di Mondo Mostre che lavora in partnership con Coop Culture, riporta in Italia una collezione che Massimiliano d'Asburgo aveva effettivamente pensato per Miramare. Simone Todorov, CEO di Mondo Mostre. Il periodo sarà il 2026, nella primavera del 2026 sarà un percorso unico di dialogo tra quello che è Miramare e quella che sono queste straordinarie collezioni di Massimiliano, incentrate in particolar modo sull'Egitto, che peraltro dialoga anche con le collezioni dello stesso tema che sono presenti nella città del Trieste. Ed è l'occasione per ripensare anche il collezionismo e l'Egitto, una via che c'era nell'Ottocento, non so, pensiamo al barone Revoltella, e al suo ruolo nel canale di Suez, ma pensiamo anche alle collezioni dei musei civici con i quali abbiamo già intrapreso un discorso di collaborazione. Quindi sarà una mostra anche corale proprio sull'Egitto a Trieste. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'orchestra giovanile più prestigiosa al mondo, la Gustav Mahler, si è esibita ieri sera al Verdi di Pordenone. I 75 talenti sono stati diretti dal direttore di fama mondiale Christoph Eschenbach. Tenete d'occhio questi ragazzi, quasi tutti in un prossimo futuro saranno solisti di livello internazionale o prime parti nelle principali orchestre del mondo. È il destino di chi arriva a suonare con l'orchestra giovanile Gustav Mahler, fondata nel 1986 da Claudio Abbado e che sceglie ogni anno i migliori strumentisti tra i 18 e i 26 anni del vecchio continente per un programma di stage e concerti e che per il decimo anno è in residenza a Pordenone. A guidarli, come al solito, un direttore di prima grandezza. Dopo Kirill Petrenko, quest'anno è toccato a Christoph Eschenbach. Come solista vocale, un altro numero uno, Matthias Görner, che si è concesso alle telecamere solo al momento degli applausi e che quindi non vi possiamo far sentire. Quel che invece potete sentire, seppure per pochi secondi, nell'ottava di Beethoven, è la coesione di suono che questi formidabili musicisti hanno raggiunto in una settimana di lavoro assieme e che perfezioneranno nella seconda parte dello stage, in programma sempre ad agosto a Pordenone. Una serata al Teatro Verdi dedicata ad Alfred Brendel, il pianista austriaco scomparso ieri, che proprio all'insegnamento ai giovani aveva dedicato l'ultima parte della sua attività e che 7 anni fa aveva ricevuto anche per questo il premio Pordenone Musica. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Philipp Pelster, organista titolare della Cattedrale di Salisburgo, sarà protagonista di un doppio concerto per la nuova tappa dei concerti in Basilica, realizzato in sinergia con Go 2025. Primo appuntamento alle 17.30 nel santuario di Svetagora, il colle che domina Nova Gorizia, e domani alle 20.45 nella Basilica Patriarcale di Aquileia. Cerimonia di premiazione del quarto concorso internazionale Gianni Stuparic alle 17.30 al Caffè Rossetti di Trieste. La manifestazione è riservata agli under 30 del territorio transfrontaliero. Quest'anno è stato richiesto un racconto inedito sul tema della memoria o una riflessione sui temi più significativi della contemporaneità. Il concorso è curato dal Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste. La giuria è stata presieduta dalla professoressa Maria Cristina Benussi. Primo premio a Edoardo Rizzo col racconto Tra mais e rovine, sueño en otro idioma. Nell'ambito di atmosfere letterarie alla Kleine Berlin, presentazione del libro I 10 brani rock che sconvolsero il mondo di Maurizio Lozei alle 20.30. Marco Follini presenta la Sala Iace di Palazzo Daronco a Udine alle 18 il suo nuovo libro Beneficio d'inventario, un'opera intensa e personale che prende le mosse da una telefonata in attesa ricevuta la sera di Natale. Un ex presidente della Repubblica gli rivela che il padre fu tra i capi della struttura segreta Gladio. Da qui si sviluppa un racconto che attraversa la storia politica e istituzionale dell'Italia repubblicana, intrecciando vicende pubbliche e familiari. Dialogare con l'autore sarà lo storico Raul Pupo, in un confronto che offre al pubblico spunti di riflessione sul potere, sulla memoria e sulle dinamiche della nostra democrazia. Una serata all'insegna del revival e della musica pop con la cover band ABBA Stars di Praga alle 21.15 in Piazza della Concordia a Ronchi. È un incontro dedicato alla prevenzione contro le truffe e i raggiri, promosso dall'amministrazione comunale di Basiliano in collaborazione con i carabinieri di Campo Formido e con l'associazione Consumatori Attivi. Si svolgerà alle 18 a Variano, nella canonica in Largo Monsignor Vicario. Sono le 12:54:10. Questo notiziario finisce qui. Ha avuto l'assistenza tecnica di Samuel Montalto e di Marco Ferrito, la collaborazione in redazione di Samantha Gon. La nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione. Da Andrei Maruscic e da Antonio Cajazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.